Non so se sono morto o no, non me lo ricordo, so che quello che c'ho non è tanto, ma questi stronzi non me lo tolgono mai. Non te l'hanno detto? Se non gli tagli la testa risorgono. Risorgono, escono dalle casse e ti mordono. Ma questi pensavano che con due collane d'oro e un paio di Jordan fossero i più freschi. Meschini, brutto quando cresciano i destini. Le cose non sono vere se le scrivi, ma se le vivi con i respiri. Questi qua sembra sentano la necessità di dirmi che sono meglio di me perché hanno fatto l'università. Io non ho studiato, però ho studiato anche quando la situazione era pessima. Per questo resto qua vi siete persi fra fumo un personale in un terminale. Poi parto l'Italia in lungo e in largo. Salgo pioggia di canne sul palco. Canto con tutte le mani in alto. Alto con tutte le mani in alto. Cambio le regole, cambio il gioco. Cambio le regole, cambio il gioco. Cambio le regole, cambio il gioco. Cambio le regole, cambio il gioco. Fanculo che ti amo, già lo sai. Questi non ci prenderanno mai. Scappa! Sulle scale con le carte del legale, prese male già nel preserale, storie messe male. Attacchi di panico, lei stringe il manico, poi li trafigge nell'animo. Corri che questi ci sparano, corri che questi ci sparano. Tanti proiettile per questi casi, sono le corde, stringile forte, ansia e presagi di morte. Perdo la parte più umana, poi guardo il soffitto come la mia sposa. Triste dall'anima uggiosa, che mi sgrida ogni volta che faccio qualcosa. Sogno una porta che si apre, come nei libri di fiabe. Ma quello che vedo sono i mirini dei laser che scorrono sopra le case e mi inseguono. Ci credono, prevedono di farmi fottere da loro facendo anche finta che li adoro, ma no. Mi inseguono, ci credono, farmi male il loro lavoro. Mi provano a prendere al volo, ma no. Non mi possono togliere l'inchiostro dalle pagine. Non casco due volte nella stessa voragine. Li voglio morti, poi mi insonorizzo lo studio coi loro corpi. Guardo gli orologi, il tempo scorre più lento. Se sono violento dipende da come mi sento. L'ambizione è uno strumento malefico e non esiste anestetico. Ti rimane dentro fin quando non arrivi a 100, oppure ti prendi un bello spavento. Cambio le regole, cambio il gioco. Cambio le regole, cambio il gioco. Cambio le regole, cambio il gioco. Cambio le regole, cambio il gioco.